tutte le parole che non sei riuscita a dire mai. Eri in mezzo a una vita che poteva andare, ma non si sapeva dove. Ti invisti a fare giochi con lo specchio e aver fretta ad essere grande, poi voler tornare indietro quando non si può. Quella che non sei, quella che non sei, non sei, ma io sono qua e se ti basterà. Quella che non sei, non sarai, a me basterà. C'è un posto dentro te in cui fa freddo, è il posto in cui nessuno è entrato mai. Quella che non sei. Io ti ho vista già, eri in mezzo a tutte le tue scuse, senza saper per cosa. Eri in mezzo a chi ti dice scegli o troia o sposa. Ti ho vista vergognarti di tua madre, fare a pezzi il tuo cognome, sempre senza disturbare, che non si sa mai. Quella che non sei, quella che non sei, non sei, ma io sono qua e se ti basterà. Quella che non sei, non sarai, a me basterà. C'è un posto dentro te che tieni spento, è il posto in cui nessuno arriva mai. Quella che non sei. Eri dietro una paura che non lasci mai. No mai, no mai, no mai, no mai, no mai. Quella che non sei, quella che non sei, non sei, ma io sono qua e se ti basterà. A me basterà. C'è un posto dentro te in cui fa freddo, è il posto in cui nessuno è entrato mai. Quella che non l'hai, l'hai, l'hai, l'hai, l'hai, l'hai, l'hai, l'hai, l'hai, l'hai. La la la la la.